vs. Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. I know things are getting tougher when you can't get the top off the bottom of the barrel. What up and roar my future now? It's looking fucking new. Beh, benvenuti anche oggi a This is not an exit, sabato 4 luglio, ultima puntata per la stagione 2014-2015 di This is not an exit. Siete sempre su Radio Città del Capo, 94.7, 96.250 in modulazione di frequenza, oppure siete sul nostro sito e ci state ascoltando in streaming, oppure siete in podcast, chi lo sa. Abbiamo anche in effetti un blog e da lì si può recuperare qualcosa, leggere qualche articolo. Il blog si chiama, neanche a dirlo, This is not an exit, tutto attaccato, .altervista.org, e lì trovate un po' di cose, un articolo anche su quello, sull'argomento odierno. L'argomento odierno sono un gruppo stra-arci famoso, si chiamano Rancid. Ebbero un successo micidiale, ma non avete ascoltato i Rancid adesso, avete ascoltato gli Operation Ivy, prima incarnazione di quelli che poi sarebbero diventati Rancid di lì a poco. E finiamo questo periodo che per noi è sempre 88 e 93 con un gruppo che proprio nel 93 ha il suo esordio. È un gruppo di ragazzi molto molto giovani, l'area è quella di San Francisco, un'area molto feconda, California ha sempre regalato nell'hardcore e soprattutto nell'hardcore melodico. Ebbene, possiamo dire che forse i Rancid sono stati i primi o comunque più consapevoli gruppi a ripercorrere un passato già scritto da altri, a partire dall'inizio degli anni 80, proprio a San Francisco. Partiamo con i Dead Kennedys e poi con Bad Religion e con tanti altri band famosissime, però nel 93 molte cose erano cambiate. I got a good feeling, everything's gonna be alright. that's why I'm pissed off. She had no money, I had the time. She had the champagne, I had the Cisco wine. She said, yo, wanna come, cause I'm better home. But I'm gonna pay. I gotta go to the fancy night. Questi sì che erano i Rancid. Ma quest'oggi abbiamo un ospite speciale. Abbiamo Damiano qua con noi che ci parlerà e ci farà anche sentire qualcosa dei Rancid. Ciao Damiano. Ciao, buongiorno a tutti. Prima sembravamo... Grazie. Grazie a te di essere qua con noi negli studi. Prima parlavamo del fatto che in California si suona hardcore, punk hardcore dal 1980 almeno, ma addirittura questi suoni. Questo è il primo disco degli Rancid, potevano essere quasi un disco dei Clash del 78. Sì, sì, già riprendevano certi suoni, anche se poi più avanti li hanno affinati molto di più i suoni dei Clash. E a proposito di quanto dicevi prima, cioè della derivazione dei Rancid dagli Operation Ivy, in realtà non è stato un processo proprio continuo. Cioè gli Operation Ivy sono esistiti tra l'87 e l'89, quindi quando erano proprio giovanissimi Tim Armstrong e Matt Freeman, che sono il cantante e il bassista dei Rancid, facevano parte degli Operation Ivy. Poi tra l'89 e il 93 però in realtà hanno provato più volte a ripartire con altri progetti, ma andando incontro sempre a dei grandi fallimenti, tant'è che Tim Armstrong pure diventò alcolista, ebbe una grave crisi e venne ricoverato anche in fin di vita per depressione, eccetera. Parlavi della scena hardcore anni 80 in California. A proposito di questo, il primo concerto degli Operation Ivy si tenne al 924 di Gilman Street, che era una sorta di centro autogestito che fu aperto a San Francisco dai fondatori di Maximum Rock and Roll, che era una famosissima fanzine punk hardcore, no? Di quell'epoca. E in quel club si ritrovarono tutti i musicisti che tu hai nominato prima, poi facendo i concerti lì, perché quel club si occupava proprio di promuovere gruppi punk anche sconosciuti. Facevano 4 serate a settimana con dei volontari che ci lavoravano e facevano sempre il pienone. Cioè avevano, quello è stato uno dei centri in cui è esplosa di nuovo la moda del punk, poi diciamo che poi negli anni 90 è diventata mainstream. Ancora una volta dopo il 77 un ritorno. e gli Operation Ivy fecero il primo concerto, ma ad esempio fu anche la prima sala prove dei Green Day, perché lì c'erano anche delle sale prove e i Green Day lì dentro si formarono. Green Day, il cui leader Billy Joe Armstrong pare, non è accreditato sul disco, ma pare che abbia registrato alcune seconde chitarre su questo album dei Rancid, il primo. Poi quando gli chiesero di diventare un membro fisso per partire per la prima tournée, lui disse no, mi dedico ai Green Day, e i Rancid presero Lars Frederiksen, che non ha inciso nulla sul primo album, e da lì allora il primo tour poi iniziò subito con Lars Frederiksen, che però appare dal secondo album come accreditato nei Rancid. Prima abbiamo ascoltato Detroit, che è una canzone dove possiamo notare subito la bravura di Matt Freeman come bassista, che è una cosa che nel punk non si era mai vista, e tutto questo album gioca sul fatto che il basso è lo strumento principale, e anche questa è una cosa eccezionale nella storia proprio del rock in generale, cioè non sono pochissimi i dischi rock in cui il basso è lo strumento principale, anche che fa anche la melodia della canzone. E quindi adesso ne ascoltiamo un'altra. If you got a son of a hope, you know, help us see, help us see. Another night in the streets for me. Another night, no sanctuary. Another night, call me, watch me bleed. Another night in the streets for me. Beh, abbiamo accennato a un fatto importante per dei punk, cioè vivere tutti in comune il più possibile, far parte di una scena molto coesa con dei valori condivisi, uno degli aspetti fondamentali che Rancid hanno ripreso in pieno. Eh sì, perché la scena di Gilman Street aveva apertamente un'etica punk, apertamente nel senso che la rivendicava. Nello statuto del club c'era scritto che non erano accettati fascisti, razzisti, omofobi, e che soprattutto il club viveva con l'etica del DIY, quindi i concerti erano auto-organizzati, le fanzine erano autoprodotte, eccetera, e così come i gruppi che suonavano erano autoprodotti. Tant'è vero che alcuni gruppi che sono nati da lì, come abbiamo detto i Green Day, poi non ci hanno più potuto suonare perché non sono più stati accettati nella scena di Gilman Street, mentre i Rancid sono ancora accettati lì, no? Se vogliono fare un concerto. I Green Day non possono più, perché nello statuto del club c'è una regola per cui se qualcuno firma per delle multinazionali o comunque per delle grandi aziende capitalistiche, diciamo, non può più suonare nel locale, a meno che non venga espressamente deciso all'unanimità dai soci. A proposito di questo impegno politico che c'era a Gilman Street, i Rancid chiaramente hanno ereditato un po' di impegno, no? Però le canzoni che abbiamo sentito fino adesso, cioè Detroit Rejected e cosa abbiamo sentito poi? Ah no, Detroit Rejected e Another Night, sono canzoni che in realtà non trattano temi di questo tipo, sono ancora canzoni, diciamo, esistenzialiste, nichiliste, sono punk nichilista, parlano di notti insonni passate per le strade, a dormire per strada, il problema dell'alcolismo, eccetera. Invece, però, già anche da questo album che stiamo ascoltando ci sono alcune canzoni che invece fanno già vedere un impegno ben più marcato, e adesso ci sentiremo infatti Situation, che si chiamerebbe Union Blood, ma nel disco è una sorta di traccia fantasma. Put on a situation, put on a street, so times you're gonna hit the cold concrete. Turns my life into biscuit wings, their bitches get the fight. Seize the dandelions, the clothes are red, breaking into general strike. Do the acclaim, the corners, I can always go, girl, but then something's true. Girl, come on, strike, by the way, many have less SM. Tornado! Put on a situation, put on a street sometimes. You're gonna hit the cold concrete. Put on a situation, put on the street sometimes. Women's pain was best, get away to back and see escape. My first pain, the hard neck one, kicked in and I ran a club in front. Women's pain was best, get away to back and see escape. My first pain, hard neck one, kicked in and I ran a club in front. But on the situation, but on the street sometimes, you're gonna hit the cold concrete. But on the situation, but on the street sometimes, you're gonna hit the cold concrete. But on the situation, but on the street sometimes, you're gonna hit the cold concrete. But on the situation, allora Babbe faceva notare mentre andava la canzone che sembra una canzone dei Bad Religion, ma infatti il produttore storico dei Rancid è sempre stato Brad Gurewitz, che è il chitarrista fondatore anche dei Bad Religion, quindi qualcosa di suo sicuramente c'è. Ma volevo leggervi un attimo i primi tre versi di questa canzone, perché abbiamo accennato all'impegno politico, no? E dicono: Bloody Thursday was July 6th, the pigs killed three workers, Harry Bridges grabbed the mic. Cioè, un mercoledì di sangue, era il 6 luglio, i maiali hanno ucciso tre lavoratori, Harry Bridges ha preso il microfono. I maiali ovviamente è riferito alla polizia, ed è già evidente quali sono i termini che usano nei confronti del sistema, diciamo, i Rancid. Harry Bridges, questa è già una citazione abbastanza colta per un gruppo di 23enni che esordisce con un album indipendente. Era un sindacalista, un leader comunista nella San Francisco degli anni 20, ed era uno dei leader che organizzavano gli scioperi del movimento operaio, insomma, no? L'epoca degli International Workers of, esatto, the World. Esatto, perché in Europa si tende a sottovalutare, no, il movimento operaio americano, si tende più a studiare quelli tedesco, russo, italiano, eccetera, ma quello americano non lo studiamo mai. Ma in quegli anni in realtà il movimento operaio più forte era negli Stati Uniti, e queste sono le vicende di cui sono gli anni di cui parla più o meno anche Jack London nel Tallone di Ferro, che probabilmente Jack London credo che sia un riferimento per i Rancid, non è mai citato, ma sono pronto a scommettere che perché è californiano pure lui, se non sbaglio. Sì, anche lui dell'area di San Francisco. Sono pronto a scommettere che sia un loro riferimento. E comunque, quindi qua già vediamo che i testi cominciano a essere impegnati. was it like that? Alongside the throne, with someone moving faster. Behind the war limits, the corporate bastard. Corporate and oppression, through the fucking glass. Take your fucking money and shove it on your ass. Take your fucking lies, I'm out of love for you. And all that shit that you're fucking through. It's your head, it's your head. Get out of fire. Boy, grab a dragon and then try to have your eyes. What's so fucking stupid with your arm on fire? I look at you, you're the same liar. Excuse me while I pull a knife from my back. How could I ever trust a person like that? Broken level bullshit, do the fucking class. Take your fucking body and shove it on your ass. Beh sì, la matrice Bad Religion si sente. D'altronde i Rancid stessi, se riusciste mai a recuperare qualche intervista, ammettono candidamente il loro retaggio Bad Religion. Tra l'altro erano prodotti da Brett Gurewitz e i Bad Religion stessi non è che si scandalizzassero se qualcuno li praticamente clonava, ma non era un clone vero e proprio, era un'ispirazione. Ed essendo più o meno tutti parte di una stessa grande famiglia hardcore, era tutto abbastanza esplicito. Sì, sì, non c'era nessun problema sotto questo aspetto. Insomma, erano amici, facevano parte della famiglia Epitaph, che era quella che poi fece diventare famosi un po' tutti i gruppi punk. Per cui, no, zero problemi su questo. E continuarono sotto questo aspetto e sotto tanti altri. Per esempio quello dell'autoproduzione. E quello di crearsi, e l'autoproduzione voleva dire praticamente tutto, da disegnare le copertine a fondare una propria etichetta. Subito cominciarono con l'Epitaph, ma di lì a poco anche i Rancid diedero vita a una loro etichetta. Assolutamente sì, tra l'altro gli artwork da subito, perché Tim Armstrong poi ha iniziato pure lui a dipingere, a disegnare, è diventato insomma un appassionato d'arte a tutti gli effetti. Per quanto riguarda invece l'etichetta, sì, la Hellcat nacque quando, dopo aver sfondato, diciamo, i Rancid con An Out Come the Wolves, cominciarono ovviamente a piovere le proposte delle multinazionali. E quindi di nuovo torniamo al discorso dell'etica DIY, del problema con la scena di San Francisco che c'era, no? I Rancid decisero che non aveva senso continuare a tenere la propria nicchia di fan, e quindi per produrre in maniera indipendente i propri dischi fondarono la Hellcat. Un esperimento a metà ci fu, per la verità, cioè con l'album del 2003 che si chiama Indestructible, però siamo già nella fase un po' autocelebrativa, diciamo, cioè dopo gli album che contano davvero, anche se è un album di valore anche quello. Indestructible fu prodotto dalla Hellcat ma distribuito dalla Warner solo in Europa, per il resto fu sempre Epitaph. Quindi ci fu questa mezza via che fece un po' arrabbiare alcuni fan. Poi in realtà da subito dopo ritornarono direttamente, cioè non proseguirono per quella via. Fu un esperimento a metà che non proseguirono, per cui insomma furono più o meno perdonati, tant'è vero che adesso anche gli altri progetti paralleli che hanno avuto, tutti estremamente famosi, perché insomma quando poi sei Rancid, se fai delle cose dopo di base hai già un pubblico molto ampio, sono stati prodotti da Hellcat oppure Epitaph, insomma. We'll be right back. lemons. All I wanna do is get me through that dying. All I wanna do is keep on trying. Another night in the streets for me. Another night, no sanctuary. Another night, Corbin watch me bleed. Another night in the streets for me. The coast was clear. She always knew the final battle was near. If you gotta pay her though, she won't give it up for free. If you gotta sell her hope, it'll help her see. Help her see. Another night in the streets for me. Another night, no sanctuary. Another night, call me, watch me bleed. Another night in the streets for me. Skyline. As I cross the city, I'm for a landmine. All I wanna do is make it through that night. All I wanna do is keep on trying. Another night in the streets for me. Another night, no sanctuary. Another night, call me, watch me bleed. Another night in the streets for me. Siete sempre su This Is Not An Exit, o meglio siete su Radio Città del Capo. Questa è This Is Not An Exit, ormai siamo a metà del guado, ultima puntata per questa annata abbiamo detto, e chiudiamo con un gruppo famoso, i Rancid. Li state sentendo, non so se li abbiate riconosciuti, perché il primo disco dei Rancid non penso sia così famoso, a meno che non siate appunto nella scena hardcore, quindi in questa automarginalizzazione che poteva essere però un'automarginalizzazione sana, cioè voluta. Beh sì, sì sì, certo, direi di sì, perché c'era tutta questa etica anarcho-punk che veniva portata avanti. Poi sai, una volta arrivato il successo, l'impegno è diventato anch'esso una sorta di marketing, no? Nel senso che cioè, ma non lo dico in maniera negativa, cioè è naturale che quando tu una cosa di cui discutevamo io e Babe prima della trasmissione, no? Era che questi hanno sfondato in tutto il mondo, no? Però in realtà i testi erano radicali, esattamente come quello che vi ho letto prima. Erano sicuramente scritti meglio, perché i testi dei Rancid tra, diciamo, tra In Out Come the Wolves, quindi tra il 96 e il 2003, sono tra i più, vabbè, io sono un appassionato, ma sono tra i più belli che io abbia letto in assoluto. Sono proprio, era proprio diventato un autore coi fiocchi, tant'è vero che ha scritto anche un album a Pink, ha scritto anche per altri artisti pop che non c'entrano niente col punk, Tim Armstrong. Pink mi mancava. Invece il primo, forse non il primo, comunque l'album con cui Pink ha fatto successo l'ha scritto Tim Armstrong. In realtà sono chicche che... Vabbè, ci si è pagato la pensione anzitempo. Esatto, dicevo che probabilmente questi gruppi facevano successo in tutto il mondo, venendo da una nicchia americana, probabilmente anche perché il resto del mondo l'inglese lo mastica un po' poco, e quindi non leggeva che la merda liberale aziendalista è la classe dominante, ad esempio come dice Injury che abbiamo ascoltato prima, no? Queste cose MTV non se ne accorgeva neanche, non c'era neanche la censura su questi testi, censura che MTV applicava, cioè l'abbiamo visto, ad esempio Rape Me dei Nirvana, ne abbiamo parlato l'anno scorso, MTV non la passava, metteva il beep dove c'era Rape Me, perché era si capiva bene. Qua invece cantato veloce, chi se ne frega cosa dice. Tanto vendevano, quindi va bene, meglio così. Anche d'altronde i Rage Against the Machine, stessa cosa, quello era un gruppo proprio militante, perché i Rancid comunque non hanno mai avuto l'estetica da gruppo militante, no? Militante politico, i Rage sì. Però nonostante tutto in realtà dicevano più o meno le stesse cose, Va bene, adesso chicca nella chicca, il nostro ospite ci farà una cover, chitarra e voce, che è una cosa un po' strana per i gruppi hardcore. Beh sì, ve la faccio in acustico, perché qua in radio era un po' impossibile. Però non vi faccio una del primo disco, trip. He knew that I was in trouble. I was feeling much like the devil. Something burning deep inside of me. Ready to flip Puerto Ricans. Those girls took us to the funhouse, where we played a lonely pinball machine, yo. Hanging on the corner, but I'm 52nd Broadway. Understanding, and it gets all too demanded. She's all cold and I'm stranded. Something burning deep inside of me. All I know is 4 o'clock and she ain't never show up there. I watch a thousand people go home from work. Hanging on the corner, but I'm 52nd on Broadway. Passing by, but none seem to go in my way. New York City, well I wish I was on a highway. Back to Olympia. Everything, something burning deep inside of me. Ready to flip Puerto Ricans. Those girls took us to the finals, and I don't wanna be alone again. Hanging on the corner, but I'm 52nd on Broadway. Cars passing by, but not a seem to go in my way. On a highway back to Olympia. Beh sì, fatta così sembra una canzone di Bob Dylan. Beh sì, vabbè sì, certo, ma no, infatti... Ma alla fine avevano una scrittura, cioè ci tenevano i testi. Assolutamente sì, no, ma infatti se le, cioè, se le ascolti in acustico sono tutta un'altra canzone. C'è del blues, c'è del rock, c'è un po' di tutto. Ma è uno dei paradossi dell'hardcore da sempre, non si è mai capito alcunché, penso anche un americano andasse a un concerto del Black Flag nell'82 e non penso capisse quasi nulla. No, è impossibile perché cantano talmente veloce, biascicando, urlando, non puoi capire tutto, è impossibile. Eppure l'enfasi è sempre comunque stata sul contenuto. Sì, sì, sì, certo, assolutamente. Questa era Olympia, ovviamente, che non ho detto prima, ma che è su And Out Come the Wolves, quindi l'album più famoso, è una canzone abbastanza famosa, insomma... Beh, continuano comunque nella falsa riga dei padri fondatori dell'hardcore anche in questo, quindi abbiamo parlato di impegno, abbiamo parlato di ricercatezza nelle liriche. Eppure sì, anche loro urlavano come dei dannati e, sì sì, questo sicuramente, anche se And Out Come the Wolves poi è l'album più stile Clash, cioè lì si vede che veramente dicono vabbè adesso facciamo come il nostro gruppo preferito, che sono sempre stati i Clash, però lì si sentono le influenze ska, anche i tempi, anche il tempo punk continuo che è tutto uguale di tutto l'album, ed è una delle cose che lo rende magnifico perché sono tutte canzoni pop con ritornelli melodici, però con lo stesso ritmo punk. Anche su quel ritmo si sente l'incidere ska, cioè la le chitarre hanno sempre una sorta di stoppato in levare, oltre alle canzoni più propriamente ska, che c'hanno proprio il pulito, eccetera. E adesso ve ne faccio un'altra di questo album, che però è molto famosa. This is the boss, powder down on camel guns. I know that he was on her, he was waiting for me. All the punk rockers and the moon stompers, riders on the corners while I was peering for change. I started thinking, you know I started drinking, but I don't really remember too much of that day. Something struck me funny when we were out of money. Where do you go then when you're only 15? With a music execution and a total revolution. Please and me. Radicals, given the boot, the roots, the radicals, given the boot. You know I'm a radical, given the boot, the roots, the reggae on my stereo. The radio was playing, that's one that could was singing on the 43 buses. We climbed up the hill, nothing ain't coming but the reggae drumming. And we all come from hollow big arms. I say, what have you bought a hair? Pick up the bottle, Mr. She was a miniskirt girl, blurry vision, so nothing wrong with a music execution and a talk of revolution. Please and me, radicals, given the book, the roots, the radicals, given the book. You know I'm a radical, given the book, the roots, the reggae on my stereo. Questo pezzo mi fa venire in mente un'altra canzone che si chiama Kill Me, Kill Me, Kill Me, I'm a Radical, che risale addirittura agli anni 70 e avevano rifatto già i Dead Kennedys, quello di coverizzarsi e di ricoverizzarsi. Anche questa è una tradizione che Rancid hanno portato avanti. Sì, beh, d'altronde il fatto di dire sono radicale è comunque comune a tutte le culture alternative lì. L'originale è Kill Me, Kill Me, Kill Me, I'm a Liberal. Uccidimi. Ah, giusto, quindi la loro era grandi. Ma d'altronde i tempi erano cambiati e anche la musica che andava in quell'epoca, cioè stiamo comunque parlando del 93-92. Sì, certo. Era quasi, più o meno questa. Qua siamo in epoca fine della storia, revival di tutto praticamente, perché poi c'è stato anche il revival anni 80, eccetera. Questa canzone comunque ha inaugurato quello che poi è diventato un classico dei Rancid, cioè il cantato a due voci alternate tra Tim Armstrong e Lars Frederiksen. Il rapporto tra loro due è molto interessante, perché ha contribuito poi anche a quella cosa che dicevi prima, no? del DIY, dell'autoimprenditorialità con i progetti paralleli, perché Nel 2000 Lars Frederiksen ha iniziato un progetto parallelo che si chiama The Bastards, cioè Lars Frederiksen and The Bastards, con cui ha fatto due album prodotti da Tim Armstrong. Poi Tim Armstrong ha iniziato con i Transplants, che sono diventati pure loro famosissimi perché il batterista era Travis Barker dei Blink 182, e con cui hanno fatto una canzone famosissima che ha fatto da spot a L'Oreal pure addirittura, per cui anche proprio profilo più alto, un po' più fighetto diciamo, anche se era un hip hop cattivissimo con una base punk, quindi era comunque una cosa abbastanza seminale. E lì ci sono delle ospitate di Lars Frederiksen, il basso lo suona Matt Freeman, cioè ci sono tutti questi progetti paralleli in cui poi tutti partecipano a tutto, no? Così come ecco, l'unica eccezione è l'album solista di Tim Armstrong, che è, mi pare, del 2007, che è un album più o meno reggae dub diciamo, in cui a fargli da spalla è un altro gruppo che si chiamano, sono gli Agrolites, che non conoscevo prima di ignoranza mia, prima di quel disco. Mentre poi anche invece nell'ultimo progetto di Tim Armstrong solista, che si chiama Team Time Bomb, riprendendo il titolo della canzone più famosa di Rancid, si autocitavano, cioè, questa sì che è autocitazione a bestia proprio. lì compaiono di nuovo tutti, ma proprio tutti, quindi sì, quello dei Transplants, tutti i Rancid, Brad Gurewitz, cioè tutti i loro amici lì ci compaiono. Un altro esempio grosso che volevo dirti di autocitazione è quello, la canzone che vi ho tradotto prima, no? Quella in cui si parla di Harry Bridges, il leader comunista degli anni 20, per ricordarvelo. Poi le stesse tre righe vengono citate in una canzone di Let's Go, che è il disco successivo, canzone che si chiama Harry Bridges, cioè che è proprio dedicata a lui. Quelle tre righe vengono riprese in quella canzone, quindi è proprio autocitazione. Noi non potevamo, alla grande. Non potevamo non coverizzarle. Però devo dire anche che forse il pensiero è stato anche questo: piuttosto di fare un testo che fa schifo, perché poi i Rancid facevano minimo 22 canzoni a disco, per cui a parte il primo, che sono 17 mi pare. Quindi a far così tante canzoni qualcuna ti deve per forza riuscire male. Beh, piuttosto di farla riuscire male, mettevano un pezzo che avevano, un pezzo di testo che c'era già in un'altra canzone. Get out. to a cinder. Cause it's the past and the things have changed. I move anyway I wanna go, and I will never forget the feeling I got when I heard that you got home. And I will never forget the smile on my face, cause I knew where you would be. And if you're in the crowd tonight, have a drink on me. But go easy, step like, hey, stay free. Questo è sempre This Is Not An Exit, lo riconoscete anche dalla musica di sottofondo. Siamo sempre comunque all'inizio degli anni 90. C'era parecchio pattume in giro, c'è poco da fare, ma c'era anche un sacco di persone, c'erano tantissime persone che magari si sentivano comunque fuori dai giochi. E non so i Renzi dall'inizio se avessero l'intenzione di avere il successo che poi hanno avuto con Out Comes the Wolves nel 95, nel 96, negli anni a seguire, o magari scrivono per tutti gli outsider che come loro condividevano scene hardcore e magari non ascoltavano Hathaway. Sì, sì, no, assolutamente, musica di nicchia per outsider. La canzone che ho appena suonato è però dei Clash, è Stay Free. Perché ho scelto di farvi questa? Perché i Clash erano sicuramente il gruppo che ha maggiormente ispirato i Rancid. Tant'è vero che poi, dopo la fondazione della Hellcat Records, Tim Armstrong diventerà grande amico di Joe Strummer e lo produrrà anche, perché i Mescaleros, cioè l'ultimo gruppo con cui ha inciso dei CD Joe Strummer, erano prodotti da Tim Armstrong. Anche qui i ricorsi storici, no? L'allievo che alla fine produce il maestro per farlo, pur di farlo tornare in pista, quasi un atto di stima. la questione del revival, no? Dei ricorsi. Beh, Marx diceva la storia si ripete due volte, no? La prima volta come tragedia, la seconda come farsa. I Rancid, no? Che scrivevano questi testi nichilisti all'inizio, impegnati poi comunque di origine sottoproletaria, per il movimento operaio, insomma, compagni fino in fondo, però i Clash erano un'altra cosa. Cioè, leggenda vuole che Joe Strummer e Paul Simonon, il bassista, si conoscessero tirando pietra alla polizia durante gli sgomberi delle case dei giamaicani a Brixton. No, Matt Freeman e Tim Armstrong, sempre come dei Clash, cantante e bassista, si conobbero molto più semplicemente a scuola. Poi sì, avevano dei grossi problemi sociali, però non è la stessa cosa, no? Un'altra cosa bella è che Matt Freeman è bravissimo a suonare, quindi fa il bassista dei Rancid perché è un grande musicista. Paul Simonon fu scelto da Joe Strummer per i Clash perché era bravo a dipingere, cioè perché i Clash avevano quest'etica secondo cui bisognava mischiare tutte le arti per fare la rivoluzione, e bisognava, il gruppo non era veramente un gruppo musicale ma era un collettivo rivoluzionario. In questa maniera di pensare erano guidati ovviamente dal loro manager, perché il punk degli anni 70 comunque era stato più nella testa di alcuni che avevano captato, no, delle cose che venivano dalle giovani generazioni, più che dai musicisti che poi si sono messi a suonare punk. Era tutto il contorno che rendeva punk. E adesso vi farei un'ultima canzone dei Rancid, se sei d'accordo, Babe. Sì, con questa salutiamo tutti i nostri pazienti ascoltatori e ascoltatrici che sono stati con noi tutto l'anno e ci sentiamo, direi, a questo punto a ottobre, rimandate a ottobre. Va bene, va bene. Io spero di poter essere utile con altre cose. Dopo i Nirvana e i Rancid, chissà cosa salterà fuori. Forse i Rage Against the Machine l'hai già fatta? L'abbiamo già fatta. Peccato. Comunque adesso vi suono The Eleventh Hour, sempre da An Out Come the Wolves. E poi sul... ovviamente nell'articolo che metterai sul blog vi racconterò anche un sacco di altri aneddoti. Sì, insomma. Ricordo sempre il blog, il nostro blog thisisnotanexit.altervista.org. Beh, a sentirci tutti quanti allora. Ciao a tutti. Finally seen all your broken dreams come crashing down your door. They demand an answer, and they demand it quick, or the questions fade and then the wasted days come crawling back for more. And I say, do you know where the power lies? And who pulls the strings? Do you know where the power lies? It starts and ends with you. The face of isolation, well, that's what you recognize. Well, you can't get straight, it's a lonely place, and it's one you do despise. I said boredom is for sales now, and the helplessness you feel, it's a warm-up dump and the hawks are above. Blood splattered real to real. And I say, do you know where the power lies? And who pulls the strings? Do you know where the power lies? As it starts and ends with you. Sudden rush, then I could almost touch the things that I've done wrong. A blade of concrete through the silence I could feel. My hand is through and I will walk on through these mountains made of steel.